12:20 minuti, con pochissimo ritardo inizia questo appuntamento prenatalizio di Maldestro, osservatorio antifascista di Radio Onda Rossa. Non ho più figli, non ho più amore, sono polvere la storia, il vento. Un appuntamento settimanale, questa volta ovviamente influenzato dal clima prefestivo, quindi particolarmente leggero. Avremo sicuramente, potremo mantenere la promessa, almeno parzialmente, di mandare in onda uno degli interventi, almeno per adesso, del convegno antifascista tenutosi a Madrid il 20 novembre scorso, a cui abbiamo partecipato. Ovviamente con un ringraziamento particolare a Mucha Cagna per il supporto linguistico e logistico sia durante le giornate madrilene che nella traduzione del file audio che manderemo in seguito. La vita di Rosso si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso, ma che muoia la carne tra la rabbia e il silenzio, non è importante, non fa poi così male. Questo qui tra l'altro dovrebbe essere anche soltanto il primo di appunto di questi interventi che conferenza antifa che stiamo traducendo, cercando così di poterli riproporre agli ascoltatori e alle ascoltatrici italiani. Mi sembra doveroso anticipare il bollino rosso su questo intervento, nel senso che sicuramente si sentiranno anche molte cose particolarmente crude rispetto alla realtà moscovita, perché quello di oggi, appunto, quello che manderemo oggi è l'intervento della attivista antifascista russa, appunto, alla charla antifascista del 20 novembre al CSO La Traba di Madrid, e ovviamente rende particolarmente bene quello che è il clima di guerra a bassa intensità, di guerra non dichiarata, che neonazisti e nazionalisti hanno dichiarato a migranti, agli attivisti stessi e a tutte quelle forme di diversità che popolano le metropoli russe, Mosca in particolare. Una panoramica che, come insomma chi ci ascolta sa, cerchiamo di rendere il più nitida possibile con continui aggiornamenti, e che questa volta ovviamente possiamo anche finalmente un po' far esprimere dalla viva voce di appunto una compagna russa. Vi racconto un po' della situazione dell'antifascismo a Mosca, dei nazisti, dell'azione antifascista e di quello che è successo lunedì con il nostro compagno Ivan, assassinato dai nazisti. Primero devo dire che il movimento antifascista in Russia non esiste. O sea, antifascistas. Prima di tutto devo dire che il movimento antifa in Russia non esiste. ci sono degli antifa, ci sono dei gruppi, però un movimento vero e proprio non esiste. L'antifascismo russo si distingue molto da quello europeo, non abbiamo una tradizione lunga come qui, siamo molto giovani e tutto è iniziato negli anni tra il 2000 e il 2004 più o meno. Nel 2000 a Mosca iniziano a nascere dei gruppi antifascisti, all'epoca c'erano gruppi di punk, di skin, che avevano un'ideologia antifascista, ma non facevano niente, non erano organizzati. Nel 2004 nasce l'iniziativa Food Not Bombs, ovvero cibo, non bombe, che è strettamente in relazione con l'antifascismo, perché gli attivisti di Food Not Bombs danno da mangiare agli indigenti e poiché i fascisti credono che i mendicanti siano una spazzatura biologica, secondo loro li si dovrebbe ammazzare tutti. Ed è per questo che non amano gli attivisti di Food Not Bombs. Una delle prime vittime fu Timur Kacharava, ammazzato il 13 gennaio del 2005, mentre tornava da un'azione di Food Not Bombs con un suo amico. Era nel centro della città, in pieno giorno. Lo pugnalarono 6 volte al collo e lo ammazzarono. Nel centro della città, in pleno dia, le appugnalarono 6 volte nel cuello e lo mataron. Pues en 2004 surgen grupos. Nel 2004 nasce un primo gruppo rush a Mosca, Moscow Trojan Skinheads. Questi gruppi, la gente che li animava, volevano distruggere lo stereotipo secondo il quale uno skinhead equivale a un nazi. La gente di Moscow Trojan Skinheads sono apoliticos. I Moscow Trojan Skinhead sono apolitici, fanno solo concerti, musica. La Rush è più politicizzata, ma comunque non si può chiamare organizzazione, perché loro stessi non organizzano nessuna azione, non lavorano con i giornalisti, non fanno dichiarazioni pubbliche, fanno concerti, fanno musica, tornei antirazzisti di calcio, possono partecipare a incontri o a picchetti organizzati da anarchici o comunisti, ma loro in prima persona non fanno nulla. Pueden participar en algún meeting, en algún piquete que organicen, por ejemplo, anarquistas o comunistas, pero ellos mismos no hacen nada. Quando comparve Moscow Trojan Skinhead, Mosca si poteva chiamare anche Bone City, ovvero la città dei Bonehead, perché c'erano un sacco di Bonehead. Perché había un montón de Boneheads. Es que el 4 de noviembre. Il 4 novembre è il giorno dell'unità del popolo e i nazi fanno la cosiddetta marcia russa, Ruski March, con slogan xenofobi e tutta la simbologia nazi. Nel 2005 a Mosca riuscirono a riunire 5.000 persone, un sacco di gente. Ora, nel Moscow Trojan Skinhead ci sono 100 persone e nella Rush circa 50. Quest'anno sono riuscite a riunire 2.000 persone nella marcia russa e 1.000 persone in un concerto tenutosi vicino al Cremlino, dove cantavano gruppi razzisti con testi molto xenofobi. Cerca del Kremlin e dove cantavano gruppi razzisti con lettere molto xenofobiche. Alcuni se ne sono andati perché il livello di violenza è molto alto, ovvero alcuni nazi sono andati via dal movimento, mentre altri sono entrati in clandestinità. Da un anno e passa hanno iniziato a essere attivi i cosiddetti nazi autonomi di Mosca, i Ruski Obras, ovvero immagine russa, e sono i nostri principali nemici, perché scelgono la tattica terrorista, ovvero uccidere, ricorrere all'uso di bombe. Poiché a Mosca ci sono tanti nazi e così pochi antifa, non possiamo fare contromanifestazioni grandi come qui in Europa. Non riusciamo a mettere insieme 2-3 mila persone. Possiamo solo sognare cifre del genere. Come qui in Europa, non possiamo riunire a 2.000-3.000 persone, no. Con eso solo sogniamo. Per esempio, il 4 di novembre, quello che possiamo fare è picchiare i nazi cercandoli su treni a breve percorrenza, quando vanno in giro da soli o in piccoli gruppi o nei quartieri, e picchiarli anche lì. E dopo questi pestaggi, la notte, ai militanti i pugni fanno tanto male che non possono fare più niente. Come funzioniamo? Ci sono molti gruppi, mobs, con la parola inglese, ovvero un gruppo di amici che si allena insieme, che impara a usare il coltello, impara a correre, impara a fare indagini, a prendere informazioni su dove faranno un concerto i nazi, e quindi poi si attacca questo concerto, oppure questi ragazzi escono per strada, cercano un nazi e lo picchiano. Questa è la nostra tattica principale nella lotta contro il fascismo. Attacchiamo anche i negozi dei nazi. Attacchiamo a tiendas nazis. Ma a volte facciamo anche azioni di massa, come quando attaccarono Stanislav Merkelov e Anastasia Baburova nel gennaio del 2009. Stanislav Merkelov era un avvocato di sinistra che difendeva sempre gli antifascisti, gli anarchici, i comunisti, e Anastasia era una giornalista anarchica e antifascista. Lui tornava da una conferenza stampa e gli spararono addosso. Anastasia era con lui e mentre l'assassino stava scappando, lei tentò di trattenerlo e fu così che l'assassino ammazzò anche lei. Ella trattò di tenerle e la ammazzò anche. Poi al dia seguente. Il giorno dopo riuscimmo a riunire un centinaio di persone e ci fu un po' di riot, rompemmo le vetrine di McDonald's e anche di alcune banche. Anche quando fu arrestato il nostro compagno Alexei, perché era considerato un leader antifascista, non c'era nessuna prova, però comunque lo misero in carcere. Nella stessa notte facemmo un corteo non autorizzato nella via in cui si trovava gli arresti. C'erano 150 persone, ma ne arrestarono 69. La capacità di coordinamento di azioni tanto grandi, di massa, è pessima, perché non abbiamo alcuna piattaforma, nessuna rete di coordinamento, e quindi si creano situazioni di questo tipo. Sei persone conoscono X e dicono: dobbiamo fare qualcosa, dai, facciamo un blocco. Queste sei persone chiamano altre sei persone, queste altre sei ancora, e così via. Ma in realtà pochissimi sanno cosa fare. Per questo ora vogliamo creare un'organizzazione dal nome Resistenza Antifascista, che sarà come il coordinamento antifascista di Madrid e che stabilirà relazioni tra gruppi e organizzerà azioni. Vogliamo creare un'organizzazione Resistenza Antifascista che sarà come la coordinadora di qui, che va a stabilire relazioni tra gruppi e organizzare azioni. Già abbiamo delle infrastrutture, per esempio abbiamo dei medici di strada, che sono un gruppo di dottori che possono curare ferite da taglio non gravi, perché ad esempio se hai una ferita da taglio e vai all'ospedale e nel quartiere è morto un nazi, non depone bene, e i dottori devono chiamare la polizia se arriva qualcuno con una ferita da taglio o da arma da fuoco. Abbiamo anche allenamenti generali per tutti gli antifa, comunisti e anarchici. Nonostante siamo così pochi, comunque sentiamo la rappresaglia dello Stato, perché cerca di criminalizzare il movimento antifascista e i mezzi di comunicazione pure, perché dicono che i nazi antifa sono la stessa cosa, che sono cattivi, che sono terroristi, eccetera. Nel dicembre del 2008 lo Stato ha creato un centro denominato E, ovvero un centro in cui si lotta contro gli estremismi, e la gente che lavora in questo centro spia gli antifa, ascolta le loro telefonate, controlla gli sms, spia nelle case, eccetera. Trabaja in este centro, espía a los antifascistas, escucha sus llamadas, lee sus sms, espía sus casas, de todo eso. Ora passo alla cosa più triste, a quello che è successo lunedì scorso, quando hanno ammazzato Ivan Kostolom. Ivan è il suo nome, Korshkoi il cognome e Kostolom il suo soprannome, che significa rompiossa. È stato uno dei primi punk. Nel 2004 diventò skinhead e straight edge ed era uno dei fondatori di Rush Mosca, e i nazisti avevano già cercato di ammazzarlo. La prima volta nel 2005, quando in uno scontro con nazi lo ferirono alla testa con un coltello. Poi lo presero nell'androne di casa sua con mazze e con un cacciaviti, glielo infilarono nel collo e dopo non riusciva più a usare bene la mano destra, faceva tutto con la sinistra. Poi nel 2009 lo pugnalarono allo stomaco e lunedì scorso lo hanno ammazzato nell'ingresso di casa sua con due colpi di pistola alla testa. Il giorno dopo siamo riusciti a riunire 400 persone, è il massimo che siamo riusciti a fare a Mosca. E poi è arrivata la polizia. La maggioranza della gente se n'è andata, però una sessantina di persone è andata alla sede di Russia Molodaya, un'organizzazione che appoggia i nazi autonomi, e il leader di questa organizzazione è un deputato nel nostro Parlamento. Abbiamo attaccato la sede con pietre e bottiglie e hanno arrestato un ragazzo, ma non gli hanno fatto niente, gli hanno fatto solo una multa molto piccola di più o meno 20 euro. Ma la cosa negativa è che quando arrestano la nostra gente vengono a sapere tutto di lei e la registrano con una videocamera. Le pusieron una multa muy pequeña, que son como 20 euros más o menos, pero lo malo es que cuando detienen a nuestra gente saben toda la información sobre él. Les graban con videocámara. E ci sembra giusto riprendere fiato con un pezzo What We Feel, punk hardcore antifascista da Mosca, Sometimes Antisocial, Always Antifascist. Allora, è sulle note dei What We Feel che andiamo a voltare pagina e a cambiare argomento, anche se rimaniamo sempre a parlare di esteri. Ne parliamo con una delle nostre voci più affezionate, che tra l'altro dovrebbe già essere in collegamento telefonico. Ci senti? Sì, io vi sento bene, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, con te andiamo adesso a, tra l'altro penso anche che responsabilità, visto che tu ci porterai anche un po' alla conclusione di quest'ultima puntata di Maldestra dell'anno niente meno, quindi che sarà affidata niente meno che alla tua voce, e con te andiamo a fare una consueta finestra sugli esteri e in particolare sull'America, ovvero se non sbaglio a un anno dall'elezione di Obama. Mi immagino bene che da questi microfoni non andiamo a fare un bilancio dell'amministrazione Obama a tutto campo, ma andremo a raccontare, immagino, anche un po' quello che ha prodotto, anche nel senso quello che è cambiato nella società americana, quanto si è risvegliato nella società americana e quant'altro, no? Sì, diciamo che siamo a un anno dall'elezione di Barack Obama, era il novembre dello scorso anno, e siamo a, diciamo, quasi un mese, poco meno, dalla sua proclamazione come presidente, che è avvenuta a gennaio. E quindi siamo proprio nel momento in cui si può, diciamo, trarre un bilancio su due aspetti, in realtà, dato il contesto, insomma, della trasmissione, le cose che ci possono interessare di più. Il primo presidente afroamericano, e quindi anche simbolicamente in qualche modo un'America che si presenta al mondo con un volto nuovo dal punto di vista della propria società, insomma, no? Se pensiamo che gli Stati Uniti ci hanno messo 100 anni dalla guerra di secessione ai movimenti per i diritti civili, quindi dall'860 più o meno al 64 dello scorso secolo, per riconoscere nei fatti in qualche modo perfino l'abolizione della schiavitù, nel senso che a metà degli anni 60 con le marce di Luther King eccetera, in molti degli stati del sud americano come dire, viveva un clima di segregazione vera e propria se non di schiavismo. Quindi insomma i passi fatti negli ultimi 40 anni sembrano vorticosi. Malcolm X, Luther King e ovviamente molti altri sconosciuti hanno pagato con la vita, insomma, quel tipo di lotte. Oggi c'è un afroamericano, un meticcio a guidare il paese più potente del mondo, e questo, come dire, almeno dal punto di vista simbolico qualcosa dovrebbe significare. In realtà, appunto, dicevo, le cose su cui concentrarsi credo siano prevalentemente due. Allora, una, diciamo, riguarda il non detto che accompagna fin dall'inizio l'amministrazione Obama, parlo dei pericoli che hanno a che fare appunto con questo elemento simbolico, come reggerà il cuore profondo dell'America, WASP, bianca, protestante, anglosassone, quello che ha sempre rivendicato la sua filiazione dai primi coloni, insomma, dal Mayflower, dai padri pellegrini, eccetera, eccetera, come reggerà l'impatto con un presidente afroamericano, meticcio, che sembra aprire, anche se parzialmente, sul terreno dei diritti, diciamo, della società americana, e di qualche giorno fa l'elezione di un sindaco lesbica in una città, insomma, non proprio progressista come Houston, nel Texas. Bene, che cosa c'è un non detto, insomma, in questo anno? Il non detto è quello che riguarda le minacce che hanno sempre pesato sulle personalità che in qualche modo sembravano poter segnare una svolta nella società americana. Alcuni sono stati uccisi, altri no, che è l'ipotesi attentato. Al di là, diciamo, della bontà di questa ipotesi, cioè del fatto che sia meno possibile, si moltiplicano comunque i segnali. I segnali, diciamo, sono andati in questa proiezione, in questa prospettiva. A primavera l'Homeland Security, il Ministero dell'Interno, gli americani non avevano di fatto un Ministero dell'Interno prima dell'11 settembre, è stato costruito da Bush per rispondere alla minaccia cosiddetta del terrorismo fondamentalista. Oggi si occupa molto della minaccia del terrorismo interno, quello bianco, appunto, anglosassone, protestante, quello della destra radicale razzista. Già a marzo si leggevano dei segnali che non riguardavano tanto la possibilità di attentati ad Obama quanto il riemergere di questo clima, diciamo, di gruppi violenti, talvolta paramilitari, che costeggiano la destra per bene, diciamo, per così dire, insomma, la destra borghese, conservatrice, soprattutto annidata nel Partito Repubblicano. Dopodiché quest'estate c'è stato la pubblicazione di un rapporto molto dettagliato, molto ampio, del Southern Poverty Law Center di Atlanta, che è l'organizzazione che fa il più attento monitoraggio dei gruppi del neonazismo, dei gruppi razzisti, dei gruppi suprematisti bianchi, che fu fondato proprio da Martin Luther King. Il titolo di questo rapporto era significativo, diceva, si chiamava Milizie, la New Wave, la nuova onda. Perché la nuova onda, le milizie, i gruppi paramilitari che negli anni 80 avevano costruito reti nazionali e gruppi armati praticamente in tutti gli stati, raggiungendo decine e decine di migliaia di aderenti, l'ultima, diciamo, frontiera del radicalismo di destra, cioè l'idea di mettere insieme le leggi americane che garantiscono l'uso delle armi da fuoco, il porto delle armi da fuoco, e sostanzialmente la possibilità di fare delle aggregazioni spontanee se non minacciano fisicamente diciamo altri cittadini, quindi mettendo insieme tutto ciò che sul terreno dei diritti l'America consente anche a gruppi di questo tipo, organizzando però una sorta di prospettiva di resistenza al governo federale, al governo di Washington, con l'idea appunto di poter eventualmente passare all'azione se necessario. Quindi, diciamo, la frontiera più simile a una guerra civile simulata nel corso di questi 100 anni di storia, diciamo, degli Stati Uniti e della destra americana. Bene, le milizie in qualche modo sono scomparse dal panorama o sono rimaste un po' sotto traccia dopo che nel 1995 alcuni loro membri realizzarono il più importante attentato nella storia americana, quello di Oklahoma City, 80 morti, centinaia di feriti, un intero edificio distrutto con un'autobomba, quindi una roba modello medio orientale nel pieno, diciamo, del cuore profondo degli Stati Uniti. Bene, la rete antirazzista, l'istituto antirazzista di Atlanta, quest'estate, pochi mesi fa, ha detto si sta tornando a una condizione simile a quella del 1995, cioè i gruppi si stanno riaggregando. Benzina, diciamo, di questa riaggregazione sicuramente l'elezione di un afroamericano, quindi l'elemento simbolico che può catalizzare nei territori molti persone che oscillano tra la destra radicale e il Partito Repubblicano, e poi anche l'onda lunga delle posizioni assunte dai repubblicani in questi anni, che sono appunto, hanno sempre costeggiato la destra radicale, la destra religiosa, hanno puntato su elementi simbolici molto forti, costituendo in qualche modo un terreno favorevole. Ti posso interrompere un secondo? Sì, certo. Giustamente citi gli elementi simbolici, gli elementi di identità diciamo nazionale, per quanto si possa parlare di questi termini per quanto riguarda gli Stati Uniti, quantomeno appunto che quantomeno costeggia la linea demarcazione fra WASP e tutto il resto che rappresenta la società americana. Ma ci sono anche elementi concreti, forse in questo, cioè, questo te lo chiediamo proprio con profonda ignoranza che regna in questa regia in questo momento, tematiche anche di ordine, diciamo, economico, sociale, come la riforma sanitaria, eccetera, quanto pesano sui contenuti di questa, della nuova destra americana, della destra soprattutto radicale e appunto con poi una forte radice, dice giustamente, borghese, una forte radice, radici molto ben piantate nel Partito Repubblicano, comunque in elementi conservatori non tanto popolari quanto poi effettivamente elitari un po' della società. Ma infatti era l'ultimo elemento a cui stavo arrivando, perché sì. Il contesto era quello, diciamo, di descrivere come vengano sottolineate, diciamo, la ripresa della destra radicale, e poi arrivare all'elemento che ha catalizzato il tutto in questi ultimi mesi, che è la riforma sanitaria. Sì, diciamo che appunto in questi mesi ci sono stati segnali di una ripresa organizzativa, c'è molto dibattito in rete, diciamo, da parte dei gruppi suprematisti, c'è anche il moltiplicarsi di azioni, piccole azioni, ma non tanto azioni violente quanto azioni simboliche, ci sono state molte durante l'estate, soprattutto nel sud, in Texas, eccetera. Qualche vecchia figura della destra radicale è stato pescato negli ultimi mesi, celebre qualche mese fa, diciamo, uno di queste figure è stato arrestato vicino al museo della Shoah a Washington, eccetera, diciamo, un segnale che qualcosa si sta muovendo. Dopodiché è arrivata negli ultimi mesi la mobilitazione contro la riforma sanitaria di Obama. Lì soltanto, diciamo, una precisazione: è chiaro che dal nostro punto di vista di europei è difficile definire il divario che c'è tra la società, per quanto devastata dal welfare, per quanto devastato del mondo europeo, e quello statunitense, nel senso che parliamo proprio di due mondi dal punto di vista di come il cittadino sta nel rapporto con lo Stato e di che cosa può usufruire dal punto di vista dei servizi, non è in qualche modo paragonabile. Allora la riforma ovviamente non è una rivoluzione, è soltanto il tentativo di allargare il numero, diciamo, degli aventi diritto di una qualche assicurazione sanitaria, protezione e copertura sanitaria, di allargarlo a un numero un po' più alto di cittadini, togliendo sostanza alle assicurazioni private il monopolio esclusivo della salute dei cittadini. Quindi non è niente di rivoluzionario dal punto di vista degli Stati Uniti, significa però allargare a qualche milione di persone quelli che possono ricevere cure pure mediche sostanzialmente gratuite o quasi gratuite. Che cosa succede? Succede che tra questi cittadini ovviamente, essendo le fasce più deboli della società, è diciamo molto alto il numero degli appartenenti alle minoranze. Detto in altre parole, tra i milioni di americani che potranno, se finalmente passerà la riforma sanitaria di Obama, usufruire di qualche copertura, ci sono molti più afroamericani, latinos, asiatici e quant'altro che non nel numero complessivo dei cittadini statunitensi, cioè sono proporzioni inverse in qualche modo. È chiaro che questo elemento, accanto all'altro elemento paradossale per la nostra cultura di europei, ma che è molto forte negli Stati Uniti, cioè l'idea che ogni intervento dello Stato, anche se apparentemente benefico nei confronti dei cittadini stessi, sia vissuto negli Stati Uniti come una sorta di passaggio verso il socialismo, ricordiamoci che dopo la grande crisi del 29 perfino il New Deal fu vissuto come Roosevelt fu accusato di essere un comunista, un socialista, perché in qualche modo costruì le basi per uno Stato federale che potesse garantire con le grandi opere, con un primo piano sanitario, con il lavoro, con i sussidi di disoccupazione, un minimo di tenuta della società rispetto a quel tipo di tempesta, no? Della crisi economica. Bene, oggi sta succedendo la stessa cosa, cioè sta succedendo che contro questa riforma di Obama si mobilitano sia coloro che ritengono che questo è un ulteriore passo verso, diciamo, la trasformazione di Washington in Mosca, come dicono, no? Cioè il nostro Stato federale sta diventando, i nostri poteri federali stanno diventando quasi di tipo sovietico, arriveranno a spiarvi dentro casa, vi metteranno le mani in tasca e decideranno se, come e quando volete curarvi, ovviamente con il delitto, per esempio, degli antiabortisti che dicono questa riforma, e invece non è così, perché tra l'altro la mediazione politica ha tagliato molti dei fondi relativi appunto alla possibilità di aiutare, diciamo, le giovani che volessero interrompere una gravidanza, bene, anche a decidere quando e come avrete un figlio, eccetera, eccetera. La retorica in questi mesi è cresciuta costantemente di intensità. Bene, accanto a questo elemento c'è un elemento tradizionale, cioè quello che quando in America si parla di estendere, diciamo, il welfare, di estendere in qualche modo la partecipazione di un certo numero di cittadini a così servizio o aiuto da parte dello Stato, per una parte della destra si dice, e ovviamente questo è un messaggio rivolto soprattutto ai poveri bianchi, ai settori più deboli, si dice: con i vostri soldi cureranno i negri, no? Questo, diciamo, si dice, come per altre categorie si dice: con i vostri soldi daranno lavoro alle minoranze, no? Eccetera, eccetera. No, questo è stato... Comunque, questa struttura razziale che tu ovviamente insisti molto, voglio dire, essendo questa costante storica degli Stati Uniti, alla luce di quello che poi hai visto, quanto può rappresentare poi sul lungo periodo uno sbilanciamento particolarmente forte a destra, nel senso sul piano della sicurezza interna, eccetera, quanto si può iniziare a tradurre anche in una sorta di criminalizzazione di poi cittadini americani, o comunque una messa, non so se poi hai un'opinione su questo, una trasformazione in nemico pubblico poi degli stessi cittadini americani di origini differenti, oltre che ovviamente essere considerati un destabilizzatore delle politiche interne, sociali, insomma, questo, insomma, è un po' più immediato, un po' più comprensibile, riuscire a capirlo anche alla luce di quello che è il nostro panorama europeo. Sì, diciamo che per concludere quello che stavo dicendo, l'elemento è interessante perché la mobilitazione contro la riforma in questi mesi è stata una mobilitazione di massa. I repubblicani si sono costituiti, cioè si sono riciclati meglio in un movimento di massa che non aveva caratteristiche esplicitamente di lidiare con questa o quella forza politica. I cosiddetti Tea Party, i feste del tè, in onore, in qualche modo in ricordo dei primi patrioti che si sollevarono contro l'Inghilterra, dando vita poi all'indipendenza, no? Per non pagare la tassa sul tè, e hanno costruito delle mobilitazioni di massa. Tutti questi contenuti che prima andavo un po' elencando sono riecheggiati, quindi dando una copertura in qualche modo esplicita a posizioni radicali, senza dirlo esplicitamente, sempre accade negli Stati Uniti, ma appunto strizzando l'occhio a chi ritiene che l'allargamento dei diritti significhi in qualche modo favorire quella che poi diventerà prossimamente, nei prossimi decenni, insomma, la maggioranza non più bianca degli Stati Uniti. Questo crea un terreno molto favorevole ovviamente alla riemergenza di una destra radicale anche violenta, e pesa molto sull'evoluzione del Partito Repubblicano, che sta ancora cercando di capire quale candidato avrà diciamo da qui a 3-4 anni, visto che non ne emerge nessuno di nuovi e che tra quelli che sono stati sconfitti, McCain e Sarah Palin, l'unica che sembra essere sopravvissuta politicamente è proprio Sarah Palin, che adesso recentemente ha pubblicato una propria autobiografia e che sta su questa base, su questa presentazione del libro in giro per gli Stati Uniti, raccogliendo il consenso ad esempio di molti predicatori, di molta parte della destra religiosa. Per rispondere a quello che dicevi tu, è chiaro che diciamo, questo clima si accompagna poi da dopo l'11 settembre a un clima di forte militarizzazione dei conflitti e della presenza delle minoranze. Un solo esempio: dopo che un ufficiale dei Marines a Fort Hood qualche tempo fa, uno psichiatra militare nel centro che accoglieva i soldati che ritornavano dal fronte sia in Iraq che in Afghanistan, è impazzito, ha cominciato a sparare sui suoi colleghi, era un militare di origine giordana, e quindi anche, diciamo, un cittadino arabo e musulmano, ma statunitense a tutti gli effetti. Si è riaperto, diciamo, il problema della presenza, per esempio, del non enorme, ma insomma cospicuo in alcune aree del paese, di un'immigrazione musulmana, di un'immigrazione dei paesi arabi, e della necessità di leggi più dure, eccetera, eccetera. È chiaro che questo clima dopo l'11 settembre è stato fortemente cavalcato, no? Ci ricordiamo tutti, insomma, le leggi varate dall'amministrazione Bush da questo punto di vista, restrittive delle libertà dei cittadini, in un paese in cui la libertà dei cittadini è comunque un valore forte, diciamo, appunto, viene agitato anche dalla destra. Su questo tipo di terreno invece c'è stata una assoluta copertura, insomma, delle posizioni di Bush, che hanno potuto cambiare in qualche modo le regole della società americana. È anche vero che in controtendenza l'elezione di Obama ha spostato un po' questo clima, nel senso che non c'è soltanto un afroamericano alla Casa Bianca, ma questo voto si è ottenuto, la sua vittoria si è ottenuta anche, per esempio, con la mobilitazione dei Latinos, con lo sciopero che si è fatto un paio di anni fa, un giorno senza immigranti, in cui praticamente anche i clandestini, che sono decine di milioni negli Stati Uniti e che, diciamo, sostengono in gran parte l'economia del paese con tutti i lavori dei servizi, eccetera, le famiglie e quant'altro, è diventato un simbolo, no? Paralizzare il paese diventa un simbolo di questa presenza. Beh, diciamo che questa volta tutte le minoranze in qualche modo hanno trovato un candidato che gli esprimeva, ripeto, più sul piano simbolico, più sul piano delle attese, che non quello poi delle concrete. Quindi, in qualche modo, qual è la situazione, diciamo, per fare una sorta di bilancio? Che da un lato i segnali sono quelli dell'indebolimento del razzismo istituzionale, nel senso che la presenza di Obama, le persone di cui si è circondato, il clima che ha portato all'elezione di Obama, ha fatto sì che in qualche modo il post 11 settembre si sia cominciato a diluire e l'America sia uscita da quell'emergenza securitaria che schiacciava anche una parte delle minoranze. D'altra parte, in questi mesi, ultima la campagna contro la riforma sanitaria, ha visto il riacutizzarsi, diciamo, di quei conflitti interni alla società americana, dentro la quale da un lato il Partito Repubblicano, dall'altro l'estrema destra sono cresciuti in questi anni, con un elemento in più, che ovviamente la crisi economica pesa su tutti, pesa sulle minoranze, come pesa anche sui piccoli, sui poveri bianchi, e soprattutto su questo ceto sociale, cioè su diciamo, i bianchi indeboliti, impoveriti, che fanno leva i repubblicani, perché con quell'elettorato che nell'arco degli ultimi 10 anni, ma anche prima con Ronald Reagan, avevano vinto le elezioni, costruendo però nel paese un clima di odio molto forte, un clima di contrapposizione molto forte, che diciamo, non solo poi porta alla nascita di gruppi violenti, al ritorno, insomma, dello stile Ku Klux Klan, capirsi, ma che poi semina anche proprio odio nel paese, costruendo poi le condizioni per cui, diciamo, possa accadere in qualche modo qualunque cosa, e soprattutto perché non si ritrovi mai una sorta di possibilità di riportare il dibattito sulle cose concrete, come sta accadendo con la riforma sanitaria, sulle cose diciamo concrete che possono favorire o meno, diciamo, la vita dei cittadini. Invece il dibattito rimane sempre un po' artefatto su elementi simbolici, anche perché, ed è l'ultima cosa, la riforma sanitaria ha in questo momento molti critici anche da parte della sinistra americana, dalla parte di elementi dello stesso Partito Democratico, che per farla passare la si stanna quando troppo, e che ogni giorno che si concede qualcosa, diciamo, agli avversari, ai repubblicani, per indebolire l'elemento simbolico di questa riforma, in realtà si toglie a milioni di cittadini qualcosina in più, insomma. Quindi c'è proprio un problema anche reale di che cosa si porterà a casa alla fine, e la riforma potrebbe essere votata in questi giorni. C'è l'ultimo voto al Senato alla vigilia di Natale, quindi è possibile che il nuovo anno sia, diciamo, salutato con questo risultato, ma che sarà però un risultato, diciamo, un po' bianco e nero dal punto di vista dell'esito complessivo. E che, fammi aggiungere solo una postilla, là, come negli anni Ottanta, poi là, quella che all'epoca era la cosiddetta guerra ai poveri praticamente, nelle metropoli, attraverso le trasformazioni urbanistiche e le trasformazioni sociali, poi appunto questa agenda in qualche maniera nascosta poi è quella poi che diventa determinante per influenzare complessivamente poi il panorama globale. Comunque, no? L'onda lunga dell'amministrazione Reagan è quella che ha determinato poi trasformazioni radicali nel modo di vivere e pensare più o meno di tutto l'Occidente, e anche lì era anche un'epoca di guerra globalizzata, e anche lì poi questo contesto in qualche maniera è stato un po' appunto l'asse portante del timone del mondo per un buon decennio e rotto, insomma, fino all'89-90. Non so se hai qualcos'altro da aggiungere, ringraziandoti ovviamente per averci tolto l'onere anche degli ultimi 20 minuti dell'anno, perché questa cosa ovviamente oggi abbiamo fatto questa puntata molto light. Se non hai nulla da aggiungere, beh, direi che possiamo lasciarci con questo, diciamo, con un augurio di fine anno, si fa in questi casi? Sì, diciamo, ovviamente l'augurio è sempre relativo a sapere bene che da qui a 2 settimane certo non cambierà molto quello che ci abbiamo intorno. E comunque che noi torneremo, insomma, perché mi sembra una minaccia più che un... No, quello direi che, insomma, spero che sia, perché direi che non è manco una speranza, direi che è una certezza, insomma. Allora, al 2010 anche con te. D'accordo. Un abbraccio, ciao. E al 2010 anche con i nostri ascoltatori, o meglio, per quanto riguarda Maldestra, ovviamente la radio continuerà a trasmettere per tutto anche per i prossimi giorni. E, unico appuntamento che ci sentiamo ovviamente di ricordare il 31 dicembre sotto al carcere di Rebibbia, come ormai tradizione vuole, a portare calore e solidarietà e l'augurio di un anno nuovo che porti magari anche la libertà per i detenuti e le detenute del carcere di Rebibbia e non solo, e l'appuntamento serale consueto al Loa Acrobax, all'ex cinodromo di Ponte Marconi, per la serata Odio il carcere a sostegno di Onda Rossa. Quindi, salutandoci qua per il 2010, ricordiamo maldestra.noblogs.org per riascoltare le trasmissioni scorse, anche questa, diciamo, da qui a qualche ora, magari un paio di giorni, e per poter visionare anche altri contenuti provenienti dalla scena antifascista nazionale e non solo. Con questo quindi ci salutiamo, vi lasciamo con un po' di musica in attesa del GR. Enough is enough, is enough, is enough. Open your eyes.